il veliero, segue la bussola e segue il cielo, vola leggero nel mare piatto, vola lontano dove non sei mai stato. Naviga, naviga, naviga piano, come se fosse sul palmo di una mano. Ma al sopraggiungere della tempesta, tra spruzzi e fulmini e correnti micidiali, l'albero di maestra perde la testa e il capitano si getta tra le onde. Non c'è più niente da fare e la nave cola giù. Naviga, naviga ancora, sotto le onde, nelle acque profonde, sotto agli affanni delle genti, ora affondare non si può più. Naviga, naviga, naviga piano, come se fosse sul palmo di una mano. Al sopraggiungere della tempesta, tra spruzzi e fulmini e correnti micidiali, l'albero di maestra perde la testa e il capitano si getta tra le onde. La nave cola giù.